solo si abbranca alle gambe di Gesù e alza il suo viso dagli occhi dilatati dal dolore, un tragico viso di un che affoga e sa che quello è l'ultimo sostegno che lo regge e che lo può salvare. Gesù la guarda. Le sorride pietoso, alzati, madre. Tuo figlio è guarito. Ma per te. Non per lui. La donna non crede ancora. Le pare che così a distanza egli non possa essere stato sanato, e fa cenni di diniego fra i singhiozzi continui. Uomo, levati la tunica dal petto. Là avevi la macchia. Che tua madre sia consolata. Il giovane si cala la veste apparendo nuda agli occhi di tutti. Non ha che una pelle unita e liscia di giovane ben robusto. Guarda, madre, dice Gesù e si china ad alzare la donna. Mossa che serve anche a trattenerla quando il suo amore di madre la vista del miracolo la lancerebbe contro il figlio senza attendere che sia purificato. Sentendosi impossibilitata di andare là dove la spinge l'amore materno, si abbandona sul petto di Gesù e lo bacia in un vero delirio di gioia. Piange, ride, bacia, benedice. E Gesù la carezza con pietà. Poi dice al giovane, vai dal sacerdote. E ricordati che Dio ti ha sanato per tua madre e perché tu sia giusto in futuro. Va. Il giovane se ne va dopo aver benedetto il Salvatore e, a distanza, lo seguono la madre e le altre che erano con lei. La folla dei gridi di Osanna. Gesù torna al suo posto. Anche colui aveva dimenticato che vi è un Dio il quale ordina onestà nei costumi. Aveva dimenticato che è proibito farsi degli dèi che Dio non siano. Aveva dimenticato di santificare il suo sabato come ho insegnato. Aveva dimenticato il rispetto amoroso verso la madre. Aveva dimenticato che non si deve fornicare, non rubare, non essere falsi, non desiderare la donna altrui, non ammazzare se stesso e la propria anima, non fare adulterio. Tutto aveva dimenticato. Vedete come era stato colpito. Non desiderare la donna da altri si unisce al non fare adulterio. Perché il desiderio precede sempre l'azione. L'uomo è troppo debole per poter desiderare senza poi giungere a consumare il desiderio. E, quello che è sommamente triste, l'uomo non sa fare lo stesso né i giusti desideri. Nel male si desidera e poi si compie. Nel bene si desidera e poi ci si ferma, seppure non si retrocede. Come ho detto a lui, dico a voi tutti, perché il peccato di desiderio è diffuso come la gramigna che da sé si propaga, siete infanti per non sapere che quella tentazione è benefica e va fuggita. Fui tentato. L'antica parola. Ma siccome è anche un antico esempio. Dovrebbe l'uomo sovvenirsi delle conseguenze di esso e sapere dire, no. La nostra storia non manca di esempi di casti che rimasero tali nonostante tutte le seduzioni del sesso e le minacce dei violenti. È la tentazione un male? Non lo è. È l'opera del maligno. Ma si muta in gloria per il vittorioso su essa. Il marito che va ad altri amori è un assassino della sposa, dei figli, di se stesso. Colui che entra nell'altrui dimora per fare adulterio è un ladro, e dei più vili. Pari al cuculo, gode senza spesa del nido altrui. Colui che carpisce la buona fede dell'amico. È un falsario, perché testimonia un'amicizia che in realtà non ha. Colui che così agisce disonora se stesso e i genitori. Può avere allora Dio con sé? Ho fatto il miracolo per quella povera madre. Ma tanto mi fa schifo la lussuria che ne sono rivoltato. Voi avete urlato per paura e ribrezzo della lebbra. Io, con l'anima mia, ho avuto urlo per il ribrezzo della lussuria. Tutte le miserie sono intorno a me e per tutte io sono il Salvatore.

accumulati in secoli e secoli, provocano una frana che sommerge i paesi e chi è in essi. Vi ho sovente citato ad esempio i parcoli, perché semplici e fidenti. Oggi vi dico, imitate gli uccelli nella libertà dai desideri. Guardate. Ora è inverno. Poco cibo è nei frutteti. Ma si preoccupano essi nell'estate di accumularlo? No. Fidano nel Signore. Sanno che un vermolino, un granello, un'amica, un ragnetto, una moschina sull'acqua la potranno sempre catturare per il loro gozzetto. Sanno che un comignolo caldo o un bioccolo di lana ci sarà sempre per il loro rifugio d'inverno, come sanno che, quando verrà il tempo in cui necessita loro avere fieni per i nidi e maggior pasto per la prole, ci sarà fieno fragrante sui prati e succoso cibo nei frutteti e nei solchi, e di insetti sarà ricca l'aria e la terra. E cantano piano, grazie, Creatore, per quanto ci dai e ci darai, pronti ad osannare a piena gola quando nell'epoca degli amori godranno della sposa e si vedranno moltiplicati nella prole. C'è creatura più lieta dell'uccello? Eppure che è la sua intelligenza rispetto a quella umana? Una scaglietta di silice rispetto ad un monte. Ma vi insegna. In verità vi dico che possiede la letizia dell'uccello colui che vive senza desiderio impuro. Egli si fida di Dio e lo sente padre. Egli sorride al giorno che sorge e alla notte che cala, perché sa che il sole è suo amico e la notte è sua nutrice. Egli guarda senza rancore gli uomini e non teme le loro vendette, perché non li danneggia in alcun modo. Egli non trema per la sua salute né per il suo sonno, perché sa che una vita onesta tiene lontane le malattie e dà dolce riposo. Non teme infine la morte perché sa che, avendo bene agito, non può che avere il sorriso di Dio. Anche il re muore. Anche il ricco muore. Non è lo scettro che allontana la morte, né il denaro che compra l'immortalità. Come davanti al re dei re e al signore dei signori sono cosa risibile le corone e le monete, ma ha solo valore una vita vissuta nella legge. Cosa dicono quegli uomini là in fondo? Non abbiate paura di parlare. Dicevamo, l'antipa di che peccato è colpevole? Di furto o di adulterio? Non vorrei guardaste gli altri ma i vostri cuori. Però vi rispondo che egli è colpevole di idolatria adorando la carne più di Dio, di adulterio, di furto, di illecito desiderio e presto di omicidio. Sarà salvato da te, Salvatore? Io salverò coloro che si pentono e tornano a Dio. Gli impenitenti non avranno redenzione. Hai detto che è ladro. Ma che ha rubato? La moglie al fratello. Il furto non è di solo denaro. È furto anche levare l'onore a un uomo, levare la verginità ad una fanciulla, levare ad un marito la moglie. Come lo è levare un bue al vicino o prendere delle sue piante. Il furto, poi, aggravato da libidine o da falsa testimonianza, si aggrava di adulterio, o di fornicazione, o di mendacio. E una donna che si prostituisce che peccato fa? Se è sposata, di adulterio e di furto verso il marito. Se è nubile, di impurità e di furto a se stessa. A se stessa? Ma dà via del suo. No. Il nostro corpo è creato da Dio per essere tempio dell'anima che è tempio di Dio. Perciò deve essere conservato onesto, perché altrimenti l'anima viene derubata dell'amicizia di Dio e della vita eterna. Allora una meretrice non può più essere che di Satana. Ogni peccato è meretrice con Satana. Il peccatore, come una femmina prezzolata, si dà a Satana per illeciti amori, sperandone sozzi guadagni. Grande, grandissimo è il peccato di prostituzione che rende simili ad animali immondi. Ma credete che non lo è da meno ogni altro peccato capitale? Che dirò dell'idolatria? Che dell'omicidio? Eppure Dio perdoò agli Israeliti dopo il vitello d'oro. Perdoò a Davide dopo il suo peccato, e che era duplice. Dio perdona a chi si pente. Sia il pentimento in proporzione del numero e della grandezza delle colpe, ed io vi dico che a chi più si pente più sarà perdonato. Perché il pentimento è forma d'amore. Dio perante amore. Chi si pente dice a Dio col suo pentimento, non posso stare col tuo corruccio perché ti amo e voglio essere amato. E Dio ama chi lo ama. Perciò io dico, più uno ama e più è amato. Chi ama totalmente ha tutto perdonato. E questa è verità. Andate. E prima però sappiate che vi è alle porte del paese una vedova, carica di prole, nella fame più assoluta. Cacciata dalla casa per debiti. E ancora può dire grazie al padrone per non averla che cacciata. Ho usato l'obolo vostro per il loro pane. Ma hanno bisogno di un asilo. La misericordia è il più gradito dei sacrifici al Signore. Siate buoni ed in suo nome vi assicuro il premio. La gente bisbiglia, si consiglia, discute. Gesù intanto guarisce uno quasi cieco e ascolta una vecchierella venuta da Doco a pregarlo di andare dalla sua nuora malata. Una lunga storia di lacrime che io, mezza morta come sono oggi, non trascrivo. E per fortuna tutto finisce, perché io non sono proprio in grado di durare ancora con una crisi cardiaca che dura da 3 ore e che mi abbarbaglia anche la vista.